Ciao, benvenuti alla terza puntata del podcast di Ecoblog. Io sono Eugenio. Oggi il podcast consiste in un'intervista al direttore delle strategie e delle relazioni internazionali dell'ENI, Leonardo Maugeri. Quindi oggi parleremo di petrolio, riserve petrolifere, tutto quanto dalla prospettiva di una grande compagnia. Prima di lasciarvi le parole di Maugeri, ringraziamenti di Riteo, quindi grazie a Briche, grazie ad Angelo che ha curato le musiche, grazie ai ragazzi di Blogo per il supporto tecnico. E un ringraziamento speciale invece va a Paolo in America, il primo podcaster che abbiamo conosciuto, il primo stimolo concreto alla realizzazione di questo podcast. Bene, Leonardo Maugeri, direttore delle strategie e delle relazioni internazionali dell'ENI. Buon ascolto. Le riserve globali sono più che sufficienti sia adesso che nel futuro, perché poi solo una parte di catastrofisti che dice che si stanno esaurendo. Ci sono attualmente, solo in termini di riserve provate, 38 anni di vita utile, e le riserve provate sono solo un piccolo spaccato delle riserve complessive. Riserve provate è un concetto economico, non è un concetto fisico di riserva. Quindi le riserve sono più che sufficienti, ce ne sono tantissime, e il problema è che non si sono spesi soldi per svilupparle. Il dato che ho dato sull'Arabia Saudita è quello che fa capire quanto poco si sia speso in esplorazione nei paesi che però hanno più riserve al mondo di petrolio. Dato 26 pozzi soli realizzati in Arabia Saudita negli ultimi 10 anni contro 15.700 negli Stati Uniti, che invece come paese petrolifero sono un paese del tutto maturo e in declino. Bene, in termini di gigabarili? Guardi, per petrolio allora nessuno sa quanto petrolio ci sia al mondo. Allora, le riserve provate attualmente sono pari a 1.100 miliardi di barili. 1.100 miliardi di barili, quelle provate. Lei calcoli che tra riserve provate probabili e possibili ce ne sono altre 2.000 miliardi. Il mondo consuma 30 miliardi di barili l'anno, quindi calcoli fa velocemente, sono 38 anni di vita solo per le riserve provate, e molti di più quando le riserve probabili e possibili attraverso gli investimenti saranno portate in produzione. Ed è solo una parte di quello che conosciamo. Bene, questo allora era Leonardo Maugeri, direttore delle strategie e delle relazioni internazionali dell'ENI. Per oggi il podcast finisce qui, spero che vi sia interessato. Per qualsiasi suggerimento, critica e incoraggiamento, l'email è sempre la solita, suggerimenti@ecoblog.it. Bene, ciao, alla prossima!